Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Legge di stabilità, oggi arriverà la risposta a Bruxelles. Napolitano dice giusto cambiare dopo anni di austerity, grave che ci si accapigli su uno 0,1%. I giovani industriali si riuniscono a Napoli e parlano di Italia da ricostruire. Appello alla CGIL, invece di scendere in piazza, collaboriamo per difendere il lavoro. Ho lasciato che la uccidessero, diceva uno dei medici in una registrazione. Ora lui e altri due sono stati arrestati per la morte di una donna di 71 anni a Potenza, tra loro un primario di cardiochirurgia. La morte di Elena Ceste, il cui corpo è stato ritrovato ieri nelle campagne dell'Astigiano. Il marito è indagato per omicidio volontario, domani l'autopsia. Terrorismo, scatta l'allarme per i cosiddetti cani sciolti dopo gli attacchi di Ottawa. Un uomo colpisce con un'accetta due poliziotti a New York, era vicino all'estremismo islamico. Genova, a due settimane dall'alluvione, in un parcheggio ancora 300 euro auto semidistrutte. Da 10 giorni si tenta di svuotare il luogo da acqua e fango. In Europa League vincono Torino e Fiorentina, perde il Napoli, pareggia l'Inter, ma i riflettori sono puntati proprio sui nerazzurri e l'addio di Moratti. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. In apertura ancora la politica economica. Oggi dovrebbe arrivare la replica dell'Italia alle osservazioni della Commissione Europea sulla manovra, mentre si sentono ancora gli echi dello scontro di ieri sulla diffusione del testo da parte di Roma, del testo di Bruxelles e della lettera di Bruxelles, tanto che 5 deputati socialisti francesi hanno scritto questa mattina al presidente Hollande chiedendo di fare la stessa cosa. E si apre nel frattempo, sempre dal lato della politica economica, il convegno dei giovani imprenditori, nel quale si lancia un appello alla ricostruzione dell'Italia. Iniziamo da Bruxelles e ci colleghiamo con Sergio Nava. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno da Bruxelles, dove questa mattina è esploso anche il caso Gran Bretagna. Tutto è nato dalla rivelazione che, sulla base della recente revisione del sistema del calcolo del PIL, Londra dovrà versare oltre 2 miliardi di euro alle casse del budget europeo a causa di una crescita superiore a quanto precedentemente stimato. David Cameron, infuriato, ha obbligato gli altri leader a una discussione imprevista di oltre un'ora sul tema. Per Londra, che ha già un rapporto molto conflittuale con Bruxelles, questa potrebbe essere la scintilla di un conflitto dagli esiti imprevedibili. Attenzione però, anche l'Italia dovrebbe pagare 340 milioni di euro in più a Bruxelles, mentre per ironia della sorte la Germania si vedrebbe restituire 780 milioni e la Francia addirittura 1 miliardo di euro. Roma per intanto temporeggia, la questione è aperta, dice il sottosegretario agli affari europei Gozzi. Resta alta, come hai detto tu, l'attesa sulla risposta italiana alle richieste europee sulla legge di stabilità. In un'intervista al sito del Messaggero, il premier Renzi fa intendere che Roma potrebbe concedere un aggiustamento strutturale inferiore al 0,5 punto percentuale su cui starebbe trattando la Francia. Si parla dunque di uno 0,3%, due decimali in più rispetto a quanto previsto dalla nostra manovra. Infine, l'Unione Europea aumenterà gli aiuti finanziari a 1 miliardo di euro per combattere Ebola, un raddoppio del contributo comunitario su forte pressione britannica. E chiudiamo ricordando anche l'importante intesa notturna sul pacchetto clima-energia, accordo per una riduzione obbligatoria delle emissioni del 40% rispetto al 1990, confermato pure l'obiettivo dell'aumento al 27% della quota da rinnovabili, meno ambizione invece sull'efficienza energetica, è ridotto al 27% l'incremento previsto. E da Bruxelles è tutto. Grazie al nostro inviato a Bruxelles, Sergio Nava, per questi aggiornamenti. Come si diceva, siamo in attesa della lettera italiana di risposta a Bruxelles. Nel frattempo ha parlato il Presidente della Repubblica. Mentre a Bruxelles si cerca una mediazione sui conti pubblici italiani, dal Quirinale arriva un nuovo monito del presidente Napolitano. Per il capo dello Stato l'Unione Europea non è un mostro che detta leggi inapplicabili, ma è giusto che si impegni per l'occupazione. Dopo anni di politiche restrittive e di austerity, dinanzi alla disoccupazione giovanile dilagante, è giusto sollecitare alle istituzioni europee l'attuazione di nuove politiche verso la crescita e lo sviluppo, spiega Napolitano, che aggiunge anche di aver notato che nella bozza del documento del Consiglio europeo stavolta il termine austerity non compare. Per evitare nuove polemiche, qualcuno ha accettato di non menzionarlo, forse perché mosso da qualche complesso di colpa, spiega il capo dello Stato, che definisce poi grave il fatto che non si parli più dei valori alti dell'integrazione politica europea, ma che ci si accapigli soltanto, con più o meno competenze, sullo 0,1%, sulle regole, sui trattati e sul fiscal compact. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Si è aperto a Napoli il convegno dei giovani di Confindustria, c'è là il nostro inviato Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno, ed è un invito al governo quello che arriva qui da Napoli ad accelerare sulla strada delle riforme, passare dalle parole ai fatti su scuola, giustizia, lavoro, istituzioni, senza dimenticare il mondo delle imprese, avverte il presidente dei giovani di Confindustria Marco Gai, per il quale c'è un paese da cambiare, da ricostruire, ma sentiamo le sue parole. Alzare quindi lo sguardo dalle questioni immediate, dalle gravi difficoltà del nostro presente, guardare alle grandi potenzialità del nostro futuro. Insomma, fare politica industriale, lavorare ad un industrial compact italiano. E questo, come imprenditori, come giovani, vogliamo farlo. Se spostiamo lo sguardo dallo specchietto retrovisore, c'è una lunga via da percorrere, c'è un paese da cambiare, c'è un paese da ricostruire. Bene, Jobs Act e legge di stabilità, commenta ancora Gai, con il primo si sta definendo un mercato del lavoro più flessibile, mentre la manovra, spiega il presidente dei giovani industriali, cancella la componente lavoro dall'IRAP e abbatte la contribuzione sui nuovi assunti. Quanto alla lettera da Bruxelles, l'Italia risponda con serenità, le riforme vanno premiate, serve elasticità. Infine, le relazioni con il sindacato, convinciamoli, dice Gai, che invece di scendere in piazza domani per difendere ideologie, possono collaborare con noi per difendere il lavoro. E da Napoli è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, e dunque ripartiamo proprio da qua, dalla manifestazione di domani della CGIL in contemporanea con la manifestazione organizzata da Renzi, tradizionalmente la Leopolda. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, sarà un PD sdoppiato quello del weekend tra Roma e Firenze, come hai detto tu, da una parte la sinistra e la minoranza del partito che sarà in piazza con la CGIL al corteo di domani, oltre al segretario Susanna Camusso ci saranno anche Alfredo Dattorre, la sinistra Dem con Gianni Cuperlo, ma anche l'ex segretario CGIL Guglielmo Epifani. Si attendono almeno 250.000 persone che parteciperanno a due cortei previsti dalle 8 alle 14. I due cortei confluiranno poi in piazza San Giovanni, la roccaforte della sinistra. Dall'altra parte invece stasera parte a Firenze la Leopolda, dove Matteo Renzi, ricordiamo, iniziò la scalata al Partito Democratico, e subito arrivano polemiche e critiche, questa volta da Edoardo Fanucci, fondatore di Italy. Non ci può essere dialogo tra Leopolda e manifestazione CGIL, da una parte si partecipa, ovvero alla Leopolda, per Fanucci, dall'altra si urla. Per il Premier Matteo Renzi si torna a casa per ripartire, per il ministro Maria Elena Boschi non ci saranno simboli, ma se qualcuno vuole portare la bandiera del PD va benissimo. Per Dario Nardella è un momento di grande apertura alla società, la politica scende tra i cittadini. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, a te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, dunque domani la manifestazione della CGIL, qualche agitazione sindacale in realtà è iniziata già oggi, anche se non voluta appunto dal sindacato confederale, si tratta di USB ed Orsa che stanno creando qualche problema al trasporto pubblico locale. Circolazione al momento regolare a Milano e Palermo, lievi disagi con riduzione di corse del metrò invece a Roma. Le fasce di garanzia per i mezzi pubblici a Milano sono tra le 15 e le 18 e a Roma tra le 17 e le 20. Le conseguenze si sono soprattutto riversate sui passeggeri dell'aeroporto di Fiumicino, dove sono stati cancellati 25 voli Vueling. Coinvolti anche servizi pubblici e scuola, per il settore trasporti anche l'Orsa aderisce alla protesta, revocata però a Torino a seguito della prescrizione della commissione garanzia. E sono in corso le manifestazioni in molte città per questo sciopero generale proclamato dall'Unione dei Sindacati di Base contro il Jobs Act e la legge di stabilità del governo. A Roma al corteo anche i lavoratori di Meridiana, che espongono striscioni e indossano magliette rosse con la scritta "Io sono un esubero". Fabrizio Tommaselli dell'USB marcia con loro. Non è uno sciopero specifico legato a una vertenza, ma è uno sciopero generale. Anna Marino, Radio 24, il Sole 24 Ore. Siamo alla cronaca adesso, iniziando dall'omicidio di Elena Ceste, il cui corpo è stato ritrovato ieri nell'Astigiano. Pregava che il corpo ritrovato il 18 ottobre tra il fiume Tanaro e la ferrovia non fosse quello di sua moglie, ma adesso è indagato per omicidio volontario. Michele Boninconti, marito della casalinga e madre di quattro figli, scomparsa dalla sua abitazione a Castiglione d'Asti il 24 gennaio scorso, questa mattina ha ricevuto dai carabinieri due provvedimenti. Il primo è l'atto necessario per poter assistere all'autopsia della moglie, ma l'altro è un avviso di garanzia. L'uomo, un pompiere di 44 anni, dopo la denuncia della scomparsa avvenuta la mattina del 24 gennaio, si era presentato ai carabinieri con alcuni indumenti della moglie, dichiarando di averli trovati davanti alla sua abitazione. Gli inquirenti gli avevano fatto notare che avrebbe dovuto lasciarli dove erano per farli esaminare e che erano insolitamente asciutti e puliti. Un altro elemento che deve aver insospettito gli inquirenti è una sua dichiarazione rilasciata nel corso di un interrogatorio. Tanto so che mia moglie non mi può più sentire, dichiara, e alla domanda di spiegazioni si inalbera e lascia l'ufficio dei carabinieri. L'identità del corpo ritrovato da alcuni dipendenti comunali in un canale di scolo è stata confermata ieri. Il test del DNA ha attestato che il corpo, ritrovato a circa 2 chilometri dall'abitazione di Elena Ceste, era effettivamente quello della casalinga. Ora la procura indaga sul coinvolgimento del marito nella vicenda. Miriam Corgia, Radio 24, Sole 24 Ore. Sono scattati gli arresti per alcuni medici dell'ospedale San Carlo di Potenza. L'accusa è omicidio colposo di una donna morta durante un intervento di cardiochirurgia. Sono 3 i medici sotto accusa per la morte di una donna di 71 anni avvenuta nel maggio del 2013 nell'ospedale San Carlo di Potenza. La signora Presta si era sottoposta a un intervento di cardiochirurgia. Il suo decesso, causato, secondo la cartella, da complicanze sorte durante l'operazione. Per i 3 chirurghi l'accusa è di omicidio colposo, tra loro anche il primario, che deve rispondere anche di falso in atto pubblico e falso ideologico in atto pubblico. In altre parole, è accusato di aver falsificato il registro operatorio. L'ordinanza è stata emessa dal GIP del capoluogo lucano su richiesta della Procura della Repubblica. Le indagini sono cominciate nel novembre dello scorso anno in seguito a un esposto anonimo. Da lì sono partiti gli interrogatori di medici e infermieri. A fine agosto poi sul sito Basilicata 24 è stata pubblicata un'intercettazione in cui uno dei medici arrestati ammetteva gravi comportamenti suoi e di altri colleghi durante l'intervento. Dalle cartelle mediche acquisite dalla perizia medico-legale sono emersi anche alcuni particolari. Dopo aver constatato che la signora era già morta, i 3 medici hanno continuato a operare la paziente, forse per coprire eventuali errori. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A New York per un caso di Ebola. Dallas unfortunately was caught before they could really prepare, before they really knew what they were dealing with. Il governatore di New York, Cuomo, rassicura: Dallas è stata colta impreparata da Ebola, noi grazie a quell'esperienza no. Spencer, medico, il primo ad essere contagiato nella Grande Mela, era rientrato 10 giorni fa dalla Guinea, dove era entrato in contatto con malati di Ebola. L'uomo, 33 anni, si trova ora in isolamento in un centro sanitario attrezzato per ricevere pazienti altamente contagiosi. Si stanno rintracciando anche tutte le persone entrate in contatto con lui. In particolare si monitorano la fidanzata, in isolamento, 2 amici e l'autista dell'auto noleggiata dal medico. Il sindaco di New York, De Blasio, tranquillizza. Non ci sono ragioni, dice, di allarme, perché Ebola non si trasmette con contatti casuali. L'Unione Europea intanto aumenterà gli aiuti finanziari per combattere il virus, portandoli a 1 miliardo di euro. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E arriva una storia terribile da Madrid, da Barajas, dall'aeroporto quindi, dove un nigeriano è morto dopo essere rimasto privo di sensi al suolo nel terminal 1 per 50 minuti. Non è stato assistito dai servizi sanitari, che temevano appunto potesse trattarsi di un sospetto caso di Ebola. Secondo quanto riferisce oggi il quotidiano Il Mundo, il cittadino nigeriano arrivava dalla Turchia su un volo della Turkish Airlines. Dopo aver passato il controllo della dogana, appunto, è svenuto in preda a tremori. Le forze dell'ordine tunisine hanno preso d'assalto una casa alla periferia di Tunisi, dove si erano asserragliati degli uomini armati. Nell'operazione sono morte 6 persone, 5 di loro però erano donne, e sono rimasti feriti 2 bambini. Uno degli uomini armati è stato colpito a morte, un altro ferito. Lo ha riferito il ministro degli interni. Se avremo altri aggiornamenti su questa notizia, naturalmente ve li daremo. Torniamo all'Italia, perché iniziano oggi gli stati generali dell'antimafia. Ti sta seguendo Monica Ceravolo. Monica, buongiorno. Buongiorno a voi, un pungolo per le istituzioni oggi qui da Roma, dall'Auditorium della Conciliazione, da Roberto Saviano, Don Luigi Ciotto, parole come pietre all'indirizzo dell'immobilismo istituzionale. Non c'è una strage in Italia di cui si conosca la verità, ha detto Don Luigi, e poi l'invito a intervenire su problematiche che continuano ad alimentare le mafie, le disuguaglianze sociali. Occorre rimettere, tra le altre cose, il falso in bilancio tra i reati puniti con severità, ha detto Don Luigi. In un momento in cui la politica sembra avere messo da parte il tema della lotta alle mafie, poco se ne parla, poche le proposte di legge per contrastare la criminalità organizzata, Roberto Saviano è salito sul palco della conciliazione e ha sfidato le istituzioni ad affrontare e risolvere ovviamente i problemi che alimentano le organizzazioni criminali e gli riempono le casse di soldi, droghe leggere, occorre legalizzarle, ha detto Saviano prendendo una posizione forte, carceri così come sono adesso rappresentano una palestra per i criminali più che un deterrente, ha aggiunto, e poi la corruzione si può combattere ma bisogna cancellare la pena per chi collabora. Ecco, questi alcuni dei temi. Saviano, Don Ciotti, la società civile hanno lanciato una sfida al governo, adesso bisognerà vedere se qualcuno la raccoglierà e darà seguito alle provocazioni, ed è tutto. Grazie Monica Ceravolo, e a questo, al tema dell'antimafia è dedicata l'inchiesta di Daniele Biacchessi che andremo ad ascoltare più tardi. Il calcio, innanzitutto la partita Serbia-Albania che si conclude in realtà con un 3-0 a tavolino, ma anche una penalizzazione di 3 punti in classifica per la nazionale di Belgrado, insomma 3-0 a tavolino per la Serbia, e l'obbligo di giocare le prossime 2 partite a porte chiuse. La vicenda la ricorderete, ci sono stati scontri addirittura in campo molto violenti. E poi ci sono le dichiarazioni di Andrea Agnelli: l'elezione della Federcalcio di Carlo Tavecchio è stata una sconfitta per il calcio italiano, ha detto durante l'assemblea degli azionisti della Juve, una sconfitta che ha dato un'immagine di sé del calcio, che ha dato un'immagine di sé stantie senza alcuna propensione riformista. Infine il calcio giocato, l'Europa League ha visto ieri la vittoria del Torino sull'Helsinki, quella della Fiorentina per 1-0 sul PAOK Salonicco, il Napoli sconfitto dagli svizzeri dello Young Boys per 2-0, l'Inter pareggia ma è concentrata al momento su altro, l'addio definitivo di Massimo Moratti. Cos'ha di speciale l'Inter? Perché ha il copyright della sofferenza? Perché? Perché? Domanda inutile, come dimostra l'ultimo capitolo della Moratti Story, questo triste passo d'addio con moglie, figli, tutta la famiglia appresso. Conti che non tornano, le offese di Mazzari, la convivenza impossibile con Toir, che Moratti stesso aveva definito una gran brava persona. Uno da Inter, insomma. Proprio questo preoccupa, che anche Toir sia diventato uno da Inter, contagiato da una febbre 90 che non scende mai. Certo, con Moratti c'è stato Ronaldo, il triplete, 5 scudetti di fila, ma quante sofferenze in questi 19 anni, quante sigarette, quanti lunedì in autoanalisi. Doveva pensarci prima Moratti, lo sapeva che non avrebbe potuto condividere l'Inter con un altro. Un anno fa poteva andare via con un elegante "c'eravamo tanto amati", e invece volano i piatti e sbattono le porte, come nei peggiori divorzi. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sulla legge di stabilità oggi arriverà la risposta italiana a Bruxelles. L'intesa è ad un passo, dice il presidente del Consiglio Renzi, mentre Napolitano dice che è grave che ci si accapigli su uno 0,1%, dimenticando i valori fondamentali dell'Unione. I giovani industriali parlano da Napoli nel primo giorno del loro convegno. L'Italia è da ricostruire, dicono, lanciano un appello alla CGIL. Invece di scendere in piazza, collaboriamo per difendere il lavoro. La morte di Elena Ceste, il cui corpo è stato ritrovato ieri nelle campagne dell'Astigiano. Il marito è indagato per omicidio volontario. Domani l'autopsia. Genova, 2 settimane dall'alluvione, in un parcheggio ancora 300 auto semidistrutte da 10 giorni. Si tenta di svuotare da acqua e fango, e questo è uno dei temi sui quali torneremo più avanti. Io intanto saluto Gianluca Ansalone, che è docente di geopolitica e strategia alla SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, ed è un esperto, per dirla ancora più semplice, un esperto di terrorismo internazionale e di antiterrorismo. Ansalone, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo visto quello che è successo ad Ottawa, abbiamo visto quello che è successo ieri a New York, dove una persona che abbiamo appreso oggi probabilmente vicina all'estremismo islamico, con un'accetta ha colpito e ha colpito 2 poliziotti nel Queens. Sembra segnalare tutto questo una nuova modalità di azione da parte dei terroristi, che tra l'altro, mi permetta di dirla molto brutalmente, rischia anche di scatenare una qualche psicosi nei cittadini occidentali. Non c'è dubbio che siamo nella fase più pericolosa e in un passaggio evoluto del terrorismo internazionale. Siamo cioè nella fase in cui il vertice e la piramide ha perso la capacità impartire ordini alle varie cellule sparse nel territorio a livello mondiale. Queste cellule, molto più spesso dei lupi solitari, dei jihadisti fai da te, agiscono da soli, agiscono senza necessariamente un coordinamento internazionale, ma agiscono con una forma di radicalizzazione estremamente più violenta, radicalizzazione che prendono nelle moschee più raramente o molto più frequentemente attraverso il web, attraverso internet. Questo rischia senza dubbio di scatenare una psicosi, perché è estremamente più difficile individuare la loro posizione e le loro intenzioni. Anche perché, Anzalone, il punto è che gente come questa era già sotto controllo, penso per esempio all'attentatore di Ottawa, eppure quando si tratta di un'azione di questo genere anche il controllo delle forze di polizia, delle forze dell'ordine e anche i servizi segreti è più complicato. Non c'è dubbio, tenere sotto controllo la parte della popolazione che esprime anche soltanto superficialmente l'intenzione di compiere azioni clamorose è estremamente difficile. L'attentatore di Ottawa era nel mirino e nell'attenzione delle forze intelligence e di polizia, perché più volte aveva espresso l'intenzione e il desiderio di unirsi ai combattenti in Siria. Questo non significa necessariamente che il reato è dietro l'angolo, ma significa che il livello di attenzione di guardia deve essere aumentato. Tuttavia lo svolgimento dell'azione di Ottawa denota proprio come alcune falle in termini di sicurezza e l'impossibilità di controllare capillarmente le intenzioni degli individui e il territorio renda la situazione estremamente più complessa. Un'ultima questione, lei diceva all'inizio che il terrorismo internazionale ha perso la sua struttura piramidale e la sua capacità di ordire e ordinare attentati complessi, per così dire. Ma forse, Anzalone, il terrorismo internazionale non ha più interesse nemmeno a fare questo. È di un mese fa, se non erro, un lungo speech di 42 minuti di un portavoce dell'ISIS che incitava esattamente a compiere attacchi di questo tipo. Allora, ci sono due elementi a tenere in considerazione. Il primo è il fatto che Al-Qaeda, come l'abbiamo conosciuta in maniera clamorosa a partire dall'11 settembre del 2001, non esiste più. Non esiste più, cioè la sua capacità di controllare capillarmente le diverse cellule sparse sul territorio, e non esiste più la capacità di fare quello che potremmo chiamare il fundraising, cioè di reperire risorse finanziarie in maniera massiccia per compiere attentati spettacolari. Allo stesso tempo, però, le diverse cellule che agiscono in giro per il mondo, pur perdendo questa gerarchizzazione degli ordini, hanno delle agende completamente diverse, spesso più pericolose di quelle di Al-Qaeda, perché più ciniche, più spietate. Quindi questa è esattamente la fase in cui il sistema perde controllo e si cerca di infilarsi nelle falle aperte all'interno dei nostri sistemi di sicurezza occidentali. Siamo nel momento più delicato della fase di transizione del terrorismo, proprio perché questa incontrollabilità lo rende non simmetrico e non razionale. Se volessimo usare un paradosso, potremmo dire che Al-Qaeda, che era strutturata, che era organizzata secondo un vertice estremamente rigido, tutto sommato sapeva quando fermarsi, come fermarsi e come controbattere alle iniziative occidentali. Questo tipo di terrorismo non conosce non solo alcuna remora, ma neanche alcuna simmetria logica nel confrontarsi col sistema internazionale. Grazie a Gianluca Anzalone, docente di geopolitica e strategia alla SIOI, la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, e saluto, cambiando decisamente argomento, Luca D'Alessandro, deputato di Forza Italia. Buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, con lei vogliamo parlare di divorzio breve, perché forse un po' frettolosamente sui giornali abbiamo titolato via libera al divorzio breve, perché ieri è stata messa la fiducia su un provvedimento che riguarda la giustizia e che contiene anche degli elementi appunto che riguardano il divorzio breve. Ci spiega che cosa è stato approvato ieri e invece che cosa propone lei con correlatrice, se non sbaglio, una deputata del Partito Democratico, Alessandra Moretti? Sì, un ex deputata, perché è diventata eurodeputata nel frattempo. Allora, il governo nell'ambito di un provvedimento più generale ha inserito delle norme che prevedono alcune modalità e non tempi per accedere al divorzio senza passare dal giudice, cioè in caso di consensuale ci sono delle modalità che prevedono davanti a un avvocato una sorta di accordo che scioglie gli effetti del matrimonio. Questo è quello che è stato approvato ieri. Il divorzio breve è altra cosa, è stato approvato in prima lettura alla Camera, è pendente al Senato, in Commissione Giustizia, e diciamo diventa anche meno comprensibile il comportamento del governo, perché si è cercato di inserire in un emendamento di questo provvedimento che è stato votato ieri anche i tempi, cioè il divorzio breve, passando da 3 a 1 anno o 6 mesi con consensuale. E il governo ha rifiutato, e questo lo capiamo bene, perché di fatto il governo è intervenuto su alcune modalità per accedere al divorzio, ignorando la questione dei tempi che era già stata varata ad amplissima maggioranza dalla Camera. Noi questo lo capiamo meno. E quindi in sostanza che cosa succede? Che i tempi restano gli stessi? Allo stato attuale sì, allo stato attuale restano 3 anni. Adesso io non, nel dettaglio non conosco se il governo su quella parte di consensuale li riduce, ma credo di no. Il problema è proprio questo, cioè che noi non si capisce per quale motivo si giaccia al Senato un provvedimento che intacca i tempi, cioè riduce da 3 anni a 1 anno il divorzio, per i tempi per il divorzio, e già 6 mesi in caso di consensuale. Sarebbe stato più logico che fosse, diciamo, che fosse ragionata la materia interamente, quindi sia sui tempi che sulla modalità. Al momento la disciplina sui figli minori com'è allora, come cambia? Il divorzio che noi abbiamo approvato alla Camera non prevede la distinzione fra coniugi che abbiano o meno figli minori. Per quale motivo? Perché noi abbiamo fatto una serie di audizioni alla Commissione Giustizia della Camera, in base alle quali c'è stato detto da magistrati, da esperti del settore, che la disciplina sulla tutela dei minori è già garantita da tutta una serie di normative. Quindi il fatto che il minore ci sia o meno all'interno di una coppia che vuole divorziare, poco importa, non chiaramente il minore, ma parliamo di tutela del minore, ai fini del divorzio, in quanto comunque il minore la tutela del minore è garantita e assicurata in pieno. Quindi la norma che è uscita dalla Camera non prevedeva distinzioni, parlava solo di consensuale. Al Senato si sta discutendo sull'argomento, però allo stato attuale non mi risulta che ci siano cambiamenti. Allora, grazie a Luca D'Alessandro per questi chiarimenti, deputato di Forza Italia. Voglio arrivare alla verità, non ho mai voluto ricadere Crippa o Mediaset, eravamo amici. Sono le parole dell'ex direttore del TG4, Emilio Fede, che è indagato dalla Procura di Milano per associazione a delinquere finalizzata alla diffamazione insieme al suo ex personal trainer Gaetano Ferri, che poi è l'uomo che lo ha denunciato. La vicenda che vede coinvolto Fede riguarda alcune foto che sarebbero state utilizzate dall'ex direttore del TG4 per ricattare l'azienda in seguito al suo licenziamento nel 2010. Confessa Fede ai microfoni della Zanzara di aver pensato al suicidio. L'ho pensato. Quando l'hai pensato? Anche un'ora fa, prima di parlare con voi. Ma veramente? Assolutamente sì. Però voglio arrendermi soltanto quando ho visto quella persona in galera, perché un magistrato soltanto se lo guarda con la svastica, le cose eccetera, è un personaggio abominevole. Ma stai piangendo, Emilio, no? Sì. Dimmi una cosa, ma... Non per me, per la mia famiglia e per la mia storia. Questo è un farabutto vero. Quando l'ultima volta l'ho visto, mi ha chiesto ancora 350 euro per pagare l'affitto, e ha detto: ma io ho bisogno di tanti soldi, e comunque ne ho bisogno e farò di tutto per averli. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. L'intesa sulla legge di stabilità è ad un passo, dice il presidente del Consiglio Renzi. Intanto fonti del Ministero dell'Economia e delle Finanze precisano che nessun bebè sarà escluso dal bonus di 80 euro mensili per ogni nato dal 2015. I giovani industriali si riuniscono a Napoli, Italia da ricostruire, dicono. La morte di Elena Ceste, il cui corpo è stato ritrovato nelle campagne dell'Astigiano, il marito è indagato per omicidio volontario. La borsa. Borse in diretta. Giornata positiva, FTSE MIB più 0,25, FTSE All Share più 0,33, negativa Francoforte meno 0,63%, così come Parigi meno 0,61 e Londra meno 0,25. Isabella Tasso, Radio Core Sole 24 Ore, a cosa dobbiamo il fatto che Milano va meglio delle altre? La Milano va meglio delle altre, sospinta dai titoli delle banche, mentre sale l'attesa per l'esito degli stress test che verranno diffusi domenica dalla Banca Centrale Europea. Banca Carige sale di quasi il 4%, seguendo il Monte dei Paschi che guadagna il 9%. 1%. Le due banche sono considerate fra quelle più a rischio nei test della Banca Centrale Europea, ma fra gli operatori sembra ora prevalere la convinzione che non sarà necessario un aumento di capitale in caso di bocciatura. Così il comparto è comunque positivo e sostiene Piazza Affari. Grazie Isabella anche per oggi, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Vorremmo che non si sollevasse troppo l'attenzione dalla situazione a Genova, perché a due settimane dall'alluvione ancora si scava, ancora si tenta di pompare via acqua, ancora si tenta di tirare via del fango. Nella fattispecie oggi andiamo in un luogo che è da due settimane nella sostanza una sorta di cimitero di auto sotterraneo. Si tratta del parcheggio di Corte Lambruschini. Saluto Matteo Campora, che è avvocato della GGS Merello, che è la società amministratrice del condominio Corte Lambruschini. Buongiorno Campora. Buongiorno a lei. Allora, qual è la situazione in questo parcheggio interrato dove, insomma, sono, se non sbaglio, quattro piani sotterranei? Quanto sono? Sì, quanti sono? Sono quattro piani sotterranei e nella notte tra il 9 e il 10 ottobre sono entrati 75.000 metri cubi d'acqua, quindi un numero enorme. E ancora ad oggi, a due settimane, si stanno liberando l'ultimo piano, almeno quattro, attraverso delle pompe che stanno lavorando in maniera incessante dal giorno dell'alluvione, costantemente, ma ancora oggi abbiamo ancora dell'acqua, ma soprattutto abbiamo il problema del fango. Avete ancora il problema del fango anche negli altri piani a questo punto, perché quello che avete fatto finora, da quel che ho capito, è tirar via l'acqua sostanzialmente. Sì, ad oggi è stata tolta l'acqua e rimane soprattutto il problema del fango, uno dei problemi che l'amministrazione sta cercando di affrontare con i tecnici, dove portare questo fango, perché oggi scadeva l'ordinanza sindacale che permetteva di portare i detriti e il fango nell'area della foce, quindi di Piazzale Kennedy, e quindi ad oggi i lavori di smaltimento si stanno in qualche maniera bloccando perché ci sono 6.000 metri cubi di fango che l'amministrazione non sa dove portare, quindi è un problema importante e riteniamo in qualche maniera 6.000 metri cubi di fango e non si sa dove metterli? Attualmente sì, c'è questo problema, c'è già un camion pieno che si è recato presso Piazzale Kennedy e Piazzale Kennedy non riceve, ma noi auspichiamo che in questi minuti le autorità preposte, quindi il comune, possano intervenire e permettere comunque in questa situazione di emergenza a noi, così come probabilmente anche ad altri soggetti che hanno lo stesso problema, di scaricare questo materiale per permettere di liberare definitivamente questo parcheggio dove vi erano, dove vi sono ancora 300 auto. Ci sono 300 auto, che vuol dire 300 auto di proprietà di persone, di proprietà di famiglie, e per queste famiglie è previsto qualcosa? Perché insomma magari qualcuno c'ha la macchina vecchia e dirà pazienza, però altri la macchina magari ce l'hanno nuova, appena comprata, magari stanno pagando le rate. Sì, le situazioni sono quelle che lei ha descritto, ci sono più di 300 auto che piano piano si stanno portando dai livelli più bassi ai livelli più alti e ci si è organizzati in maniera quasi militare, nel senso che le auto sono state tutte schedate dall'amministrazione, fotografate, perché vi è anche il pericolo che qualcuno poi, ed è già successo, cioè esiste questo pericolo che ci siano soggetti che vadano a rubare le targhe, sì, per poi utilizzarle su altre auto ancora. Sì. E dal punto di vista del risarcimento, alcuni avranno risarcimento della propria compagnia di assicurazione se erano assicurati per l'alluvione, altri invece probabilmente avranno dei problemi e potranno eventualmente rivolgersi anche alle istituzioni che dovevano vigilare. Grazie a Matteo Campora, avvocato della GGS Merello, società amministratrice del condominio Corte Lambruschini. Non ci dimentichiamo di Genova e ci torneremo naturalmente anche nelle prossime settimane. Il momento dell'inchiesta di Daniele Biacchessi, dedicata anche qua agli stati generali dell'antimafia e all'audizione che arriverà del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in merito alla trattativa Stato-mafia. Certe volte è questione di semantica, di utilizzo dei termini appropriati. Oggi a Roma si entra nel vivo del convegno annuale promosso da Libera contro mafie e Don Luigi Ciotti, uno dei simboli contemporanei della lotta alle mafie,

e Lucia Tolve in assistenza in redazione. Scusate, la trasmissione torna lunedì alle 13. Noi ci risentiamo tra un attimo con GR24.